civilizzazione. Benissimo, paese spettacolare, e molto vivo durante il giorno e tranquillo la sera. Secondo lei i giovani come vedono gli adulti? I giovani hanno un potenziale incredibile, vedono i grandi come dei riferimenti, poi è una domanda particolare questa, perché c'è tanto da discutere su questo. Diciamo che se sentiamo proprio i ragazzi ti dicono che noi siamo vecchi, perché abbiamo visioni vecchie che loro potrebbero migliorare il mondo e tutto, hanno l'energia e la carica per farlo, però non lo fanno. Secondo lei come vedono i giovani e gli adulti, cioè nel senso nel lato opposto invece? Cioè i ragazzi, cioè noi grandi come vediamo i ragazzi al giorno d'oggi? Sì, esatto. Allora, è una domanda quasi più semplice di quella di prima. E noi vediamo delle persone che hanno il mondo in mano grazie alla tecnologia, grazie alla televisione, grazie ai social network, che però non sfruttano, hanno un potenziale, hanno la fortuna forse che noi non abbiamo avuto di avere dietro alle spalle delle belle famiglie, potrebbero usare la loro energia e la loro carica per fare di tutto, hanno la possibilità di studiare, hanno la possibilità di intraprendere mille lavori, però gli manca forse la voglia e quell'energia che forse noi avevamo un po' di più. Okay. E invece te come vedi gli adulti? Bene. Sempre bene li vedi? Sì. Beh, perché io sono bello e allora dici che mi vedi bene. Scherzi.